la rendiamo. Certo, è la psichiatra, un virus che c'è in giro, si sì, veda, tutto rubiano pieno degli essi con l'occhio. Come lei stava mettendo le gocce alla zia che abita a fianco a me, no, nello stesso piano ero. Che lo stesso si è preso questo germe nell'aria e va tutti sui occhi e dentro la pulire le gocce. Era finito la taglia. A me mi sa che cosa giusta c'è ancora, dice di no. Mica invece all'ospedale oggi gli hanno detto che è contagiosa, e l'ha contagiata lì. E io mi ha giudizio, e gli dà di giro, cazzo di nove. Sì, se il roba virale è contagiosa, sì. C'è poco da fare, è come un'influenza, un altro. No, io stavo pensando avesse preso anche polpolari, invece no, invece se mi devi dire che riuscì. No, pure a me mi sembrava un corpo vaga, perché il giorno prima ha portato a passeggiare il pupo, il passeggino, c'è uscito anche lì, fino a via Pascoli. Ma che bel caso, sarà un corpo vaga che c'era quel vesticello come lui. Vabbè, e invece no, la custodia da chi da poco imparare. Cosa? Gli dà di giro, cazzo, se ti ha detto che è un coso virale all'ospedale, vuol dire che è contagioso, se l'ha contagiato da questi. E gli ha dato la ricetta, due tipi di gocce deve mettere. Cioè non è roba mala. Lo so, è come un'influenza, mi si contagia così, con un'influenza. Ma a te a troppo la diabete, per dire, se ti gratti in un punto fisso, là, per esempio sul braccio, sempre nello stesso punto, un pochettino, poi a te c'è la macchia rossa. No, a me no, non me ne esce. No, ma poi io praticamente un tipo di diabete, il mio è da pasto, capito? È un diabete da pasto, io prendo solo le pastiglie. Ah no, a me invece se mi chicci buru di giù, in un punto, solo se sta apriame, mi chicci giù, ma non a schiacciare forte, insomma normale, tipo un pizzichetto. Mi esce un po' il coso rullo e mi rimane, mi è senza pure a passare. Ma tu cosa prendi? Anticoagulanti? Io per la diabete faccio due tipi di insulina. Una che è arancione, si chiama Levimi. E quella è verde, la siringa, la penna, cosa si chiama? Una è arancione, Levimin si chiama, e l'altra si chiama Nuova Rapida, quella la faccio la notte, ultimo di tutti. Poi prendo per il disturbo dell'intestino, il morbo di Crohn, la retrocolite ulcerosa, prendo il cortisone, con pastigliette piccolini, Clipper si chiama. Dopo prendo una pastiglia Asacol, si chiama, quella c'è anche in Cressini, gli faccio buru, tipo un tubetto di silicone, appena più piccolo. Poi prendo quella dello stomaco, quella della pressione, prendo la pulvera. Dopo ne prendo altre due o tre, non mi ha messo il nome lì. E insomma, gli anni di villaggio, una valigia mia, adesso quando mi faccio tutti i piedi mi devo pigliare 5-6 passi. Tutto insieme le prime. È a lunga. A ritirare la giudizio, ma non mi fanno male tutte queste parti di una libertà là. Ma cosa fa male? Presi tutto insieme, la dice, cazzo di prima venire da nulla e vai a battuta, la dice, cazzo vado a ubriarsi, così ti tocco. Beh, così le devo prendere, tu stai insieme. Sì, ma una la boirata, la boirata, devi essere in conto, qui c'è della bevi figura io. No, solitamente lo fa quando prendi degli anticoagulanti, no, che servono per dilatare le vene, le arterie, eccetera, eccetera. E quando prendi il colpo, lo vado e ti lascia subito il segno, capito? Adesso per dirti, un'anima giù su, ma un dolore botti nel collo, no, dal collo è saliva sotto il mento, al fianco. Ma dolore, tutto il collo. E allora mi ha fatto fare quella visita a controllarmi le vene, tutte le vene, no? E sono libere, mi ha detto, quello che me le ha controllate. Mi ha fatto una specie di video e sono a posto. Adesso lo dovrei fare a settembre, ai piedi e alle gambe, per via dei grampi questo mi lo devo fare. Perché quando succede che ti vengono i grampi, vuol dire che il sangue non circola bene, hai capito? Io l'ho fatta l'ecografia e me l'hanno fatta dai piedi, organi genitali, tutto, la ingrossata perché a volte mi veniva a formicolio alle dita e... ma lo sta più facendo, dovrà essere la tua del carpale. La domanda è la vicinità di variare, lì da gran carne, e la mano tutta a punture, tutta a formicoline, e loro dicevano ma caprilla la mano, cazzo me l'ha già messa con l'altra mano, si disse, mi l'ha già girato, e tutta a formicina, mi sono svegliato così, e la via praticamente a gran carne addormita così. Io un minuto mi ecco da cuore perché mi si incanta, capito? Succede. Anche adesso per dire, io la mano destra, ho una, il pollice e le altre tre dita che sono tutte e quattro addormentate. E questo a me, questo dito, ma me lo sento indurizzito, cazzo è poco migliore, però è... Poi dal nervo, vedi, io lo stiro così e c'è il nervo. Poi è dal nervo, non è nemmeno lui. Però mi lo riduccio, continuo. No, deve essere questione virale, cosa ne so, anche se sono tutti vicini, tutti a dolore. Poi se mi venite mai più, non preoccupatevi che la vecchiaia. Sì, a 40 anni. Cosa devo dire io? Ma... avanti se invece, ma a 70 anni, anche mi sono andato nel visore, sta male. 72 anni, se lo vedi qua sul cale, taglia una cazzella, princesa. Io non ne ho 40 comunque, ne ho 53, grazie. Ne ho 3 in meno di te. No, io ne ho 50, se ne ho 4 più di te. Io vabbè, 3, 4, non è che ce ne sai. Vabbè, ma già dipende anche dal lavoro, del tipo di lavoro che ho fatto io, un bel lavoro. Per esempio, l'altro cervicale che c'è un miraggio, ma lui, quando mi vedi, mangio di buoni, chi c'è un capo di cuffietta, chi c'è no, mi faccio un capo del caprello là e mi devo prendere per forza la pastiglia, se no già non mi passa più. Ah, io ti dico, me ne avviso, quando mi porto in bagno, che mi bacio la doccia con le vangate nel rubuto, ma sai come ti fai? Trick, track, trick, track, trick. No, a me non me lo fa, però quando mi viene quel dolore, anche quando sta cambiando il tempo, io mi ritendo già a mesi e mezzo, mi avvisa già la mula del rubuto, e io mi... chiami e avanno mi fucchiando mi picco la bacchia perché lo sai che ti fa anche le tempie ti prende, ti spacca il cervello brutto. Ti sdoppia l'immagine, ti fa vedere il cappuccino. E la pazienza, anche la stai bene, ma ti trovi la cucca, ma poi ti ruga a un cucino e comincia a girare, ma cazzo dove la giostra. Cazzo adesso lì mi chiedo se mi sto guardando, mi sono messo in posto, poi mi faccio l'11 e mezzo, ma aspetta, stava, mi do, allora tu sai, oggi mi sono distretto, non mi sta girando il capo, paga la giostra. E come ti sei avvicinato a cultura? Io lo so, compare che ci sono venendo da un momento all'altro. Ti fa anche spaventare a volte, secondo come ti gira nel letto, dimmi già che c'è cosa, ti gira tutto quanto di cose. Ho provato a tirarmi, da allora di buccate mi sono confusato. Invece poi, con questo mio passato, stesso mi sono composto più piano, in un letto, e mi sono dormito. Però per Dio, sì, no. Mio padre si metteva questa pomata che era mai buccinosa, per il sicuro era un gusto. Ed era forte, dice che bruciava proprio questa pomata, però le faceva bene. Poi faceva bene nel momento, però poi ritornava. Allora si era fatto fare questa terapia. E gli tirava le cucute come tira gli addina con questo strumento e sono riusciti a farli passare la posizione fiscale, lo sai. Con questo strumento che ti tira il collo. Avevo una corda impiccato. Cos'è? Vabbè, è impiccato, è vero, il dolore passa. Cazzo, già, Gesua, cazzo, è impiccato. Questo bubu, Giuseppe ha le trovate sempre giuste, non ha problemi. Vabbè, buonasera a tutti, scusate l'introduzione, brutalmente. Ah Giuseppe, ben sentito, io sapevo il volo, chi porta, faccio i sani giumili. Prima si è piccato lo fratello, tempo di un anno, nemmeno si è piccato l'altro fratello, che si riconosceva proprio io, là, che era amico mio, che in Grecia veniva con me. Quasi un annetto prima si era piccato il fratello, a Platano. E dopo si è piccato eso, a pressare il fratello, per carità. Allora, ma è droga? No, cosa trovo, era... ha sempre fatto il male uguale questo qua, questo ragazzo qua, Luciano si chiama, non so se l'avevi letto sul giornale, alla Pedolce ha pensato. Io se si fa di raggogliato lo so con una volta, per molti ben conosci, io se si fa a chi... Fare un fratello, non poteva sopportare, ci devo volare già per essere piccato con lui. Ora si è piccato lì alla Madonnina, alla Feroce. Che bello. No, perché io ne conosco uno che aveva fatto 10 anni di... si drogava, ma aveva fatto 10 anni di... come si chiama? Di comunità. Poi ha visto che quando è ritornato, invece l'hanno intorno a visitare gli spacciatori, l'hanno fatto di dopo fare, quando si è visto così che non riusciva a smettere perché era fidanzato, si doveva anche sposare. Si doveva sposare, mi pare ci mancavano 2 mesi a sposarsi con la ragazza. Ha visto che non ce la faceva a smettere e si è attaccato, è andato nella casa nuova che si avevano comprato, si è attaccato il tubo del gas. E si è ammazzato uscito. No, ma questo è disoccupato, era disoccupato, era neanche che non aveva trovato il lavoro. Era un bravo ragazzo, anzi, era questo di pari. Poi anche poi è geloso, si pirava di venire a darsi un colpo di mano, veniva senza rinuncia o pulire la luce. E se l'ha presa così a cuore per il fratello. E c'è molto buruetto. E disgrazie sono, per carità. Quando ne succede uno è brutto, ma quando sono due in una famiglia è ancora peggio. Cosa mi dice? L'ha pigliato l'esaurimento. A chi era sempre uno bravino? Poi il fratello si era sposato, lui no. Però il fratello sì. Erano sempre insieme, capito? Ha lavorato molte volte insieme, chi si è piccato per via economica? appena questa vela. Non la punti più. E la tenera aperta allora, la dice la migliorata perché è tranquilla, se è tranquilla se non dici più. Cadetta te la buca buttata dall'albo. Che è successo? Proprio premeditato l'aveva il pensiero. No, magari non mi rapisce nella turbolenza, e lei è tornato da flatta a volo. Capitato che entro in finestra, quindi certo che non è più, l'avevo andata a buttare, lo era buttato all'altro. Via. Brutto, chiuse. Ehi, si è appena avvicendi. Mi sono sdraiato dopo pranzo, ho fatto un paio di ore di sonnetto, hai capito? Per riprendermi. A chi è la voce dell'esorcista? Mamma mia, cazzo mi ha tamponato, cazzo di odore, cazzo ieri notte, mi ha fatto male veramente. Ai, Giuseppe. Chi è? Allora mi dice che si era incendiato il baracchino. Si era incendiato il baracchino, grazie. Ieri sera si è sparito tu e ha detto che stavano dicendo che ci si è incendiato il baracchino. E da che parte? E quale baracchino si è incendiato? Quale? Non lo so, perché prima c'è e poi si è sparito tutto un colpo, ieri sera. Tanto è male, va niente, cazzo, allucinante, cazzo. Ma se io ieri sera quando ho chiuso che avevo il bambino, ho salutato tutti e da poi sono andato a accompagnare il bambino, a portare il bambino a casa della mia ex moglie e poi non ero acceso io baracchino, grazie, il baracchino stava andando bene. Mi sembra perché tutto così a me, non lo so, riprendi che mi asciugo i piedi, già. Cava. Avanti che ha salutato Giuseppe, avanti. Buonasera a tutti, Marco. Il Marcolino Condor, vabbè, l'uomo bionico, vabbè. L'uomo mandronico. Io pise di vidi che ce ne c'è della porta e dovrebbe staccare il cavallo. Addirittura? Sì, lo sa che ti ha già domandato chissà cosa. Ma che ti ha già domandato un pezzo di guri, Marco. Uia, mi ci ho coricato adesso. Ti piace in bocca a mandronate? Lo so, avanti Rocci. Ammazza, te ne sbagli a Marco, cazzo. Avanti, c'è coricato. Ci abitate vecchi, eh? E lo sai, le ore piccole fate ieri notte, maledetto, eh? Ecco, lo sai. Ecco, no. Tu sei il cazzo Marco, adesso ti metto il soprannome, ma Marco, il gufo della notte. Oh, non credere, io sono andato a letto così a mezzanotte. Niente di speciale, non sono uscito. Lo chiamiamo Marco Pipistrello. Pipistrello, mi hai tolto la parola in bocca già. Marco Pipistrello, l'uomo della notte. Sì, ma a mezzanotte ero a casa. Eravamo su al quadrato, Marco lì. Stavamo aspettando a Salvatore Paragricola, ci ha fatto il bidone e ce li siamo andati. Andati scesi giù a vedere quelle specie di concerto che c'era in Piazza d'Italia, ci siamo stati mezz'oretta e poi ce li siamo andati. E ho detto no, troppo tiramento di scatto ci sono. Poi c'era un tappo, un cazzo di quel vino acido, un cazzo allucinante. Ho detto no, già, ci spostiamo da qua perché sennò mi sento male. Tutti rullando giù in ci stavo le ragazzini che tra 16 anni con la cartina in mano per di giù. Beati loro. Anche tu tossico. No, io solo una volta ho provato. pizzica a due, ti ha fatto venire la mandronia. No, come il vino. Mi veniva da ridere, cosa è stato lì? Se ti prende bene, sì. Ai. Quando vi imparo più meglio. Vabbè, comunque, Giuseppe, il primo che l'ho trovato a Marco Condo mi deve affascinare il numero di telefono, perché ieri non l'abbiamo potuto contattare, se no sarebbe uscito con lui. Esattamente, ci sarà un po' divertito con noi, vero già? Cavagava. No, io ho telefonato a Barra Agricola e mi ha detto che è salito, però è salito all'ora che ha voluto lui, non ha rispettato l'orario. Non è che può succedere tante assistenti a Edo. Non ho capito, cioè le parole, gli appuntamenti se si danno, si devono anche rispettare. E cazzo, giustamente, se tu mi dici alle 10, tu alle 10 devi essere già lì, se no, tanto male che ho fatto strada inutile. Siamo andati a un'altra parte, cazzo, e ci saremmo divertiti molto di più. Se l'hanno invitato lo riduce per rispettare l'orario, se poi uno non lo rispetta, lui ha detto che è salito però dice non ce l'ha fatta più, ho provato a telefonare e non rispondeva, ha detto ma poi te l'avevi rotta da tutto il volume, e che ti sentiva? Mamma mia, cazzo, un antico cazzo di coso, di vino acido, cazzo già, non ti sta facendo male a te. Che Red Bull, tutto quanto, c'era tutto mischiato, queste ragazzine tutte cotte, le vedevi le ragazzine cotte, ieri a quell'affare lì, erano compresso un rap, Marcolino. Ah, così è, sì, c'era un casino, sentiva il volume da casa, vuol dire che era troppo alto, troppo alto. Mi Giuseppe, cosa ti ho detto io? Io gli ho detto a Giuseppe, io qua sono in discoteca, mi piace la musica alta perché anche in macchina io la tengo alta. Ma cazzo, così è troppo, così ti grebba le timpani. Magari fosse stata la musica come io comanda, hai capito, tipo discoteca, la roba, andava anche bene. Ma cazzo, ma quella lì è il rap, cazzo, ma per carità, ma che cazzo ne capisce? E vabbè, i giovani, visto come erano tutti presi, c'era la piazza, non c'era un punto dove poterti mettere, tutto pieno. E io invece sono andato a fare la nuova 500 in piazza, che c'era la rappresentazione, e subito si è appioppata questa tipa per presentarmela, ma sai quanto è bella. E ce n'è più di una all'ascolto, buonasera. Mi sembra che sei Curanio D'Auscio. Sei? K K44, presentito, cordialità. Gianni Doppio Rum in compagnia di Leoncino, di Condor e dell'amico Gufo Triste, avanti. Sento già, saluto la parte mia, falli, saluto la parte mia, avanti Marco, se lo senti, l'amico di Dobelli, di Ugino. No, è di Alghero. Negativo la parte mia, qua non arriva assolutamente zero. E qua è Alfa 44, comunque ti salutano gli amici ma nessuno di loro ti sente, io riesco a tirarti fuori diciamo con le pinze, non so che tipo di antenna tu stia usando, che tipo di stazione, così adesso mi dirai appunto in che condizioni sei di trabacco, vai. Magari quella zona non rende più di tanto, perché solitamente quelle antenne in altura vanno bene, al anche se sono antenne molto leggere, ripeto, fatte con materiale molto fino, molto duro, però rendono come antenne. Perché c'è un amico di Ossi e lo sento bene a tutte le parti. Probabilmente la zona tua, che magari è un po' chiusa, non so anche se la sia di Alghero, però con l'Energy solitamente io sento quasi tutti. Sassari, non stai parlando con Alghero o con le moto vicine, stai parlando con Sassari. E magari per quelle zone sei più aperto, capito? Vabbè, facciamo girare. Graziano, hai finito di massaggiarti i piedi? No, che adesso mi faccio la doccia, riprendi tu, appena presto già rientro. Salutami l'amico di Alghero, io lo sento pio pio. E beh, perché noi siamo una potenza, li sentiamo lo stesso anche se sono piccoli. Avanti, Giuseppe. Ah, io non lo sento già. Salutami la batteria, amico, che non ho scoppiato chi era, già. Alfa 44. 44? Alfa 44, 404, 44, avanti il signor Marco Condor, K. Alfa 44, ma non è 404, no, sarebbe Alfa 404. L'ho letto apposta per essere attento di un cito, invece non ha capito. Sì, oramai incattalisce. La drumiddu. Trabaglia già. Cappa cappa, dai, scherzo. Marco, riprendi. Marco Condor, detto anche pipistrello. Cosa volete che dica? Siamo pochi. La ruota è troppo piccola, è girata per stretta. Lasciala girare, anzi, sulle case automobiliste che cercano sempre di fare girare in più le ruote e tu, cavolo, vuoi farla girare lentamente, come questa cosa. Leoncino, ma Condor deve senza parole, senza parole. Beh, allora, Marco Condor deve fare un mese a frequentare a noi e vedrai come si sveglia tutto in un colpo. Addirittura. Avete parlato in due. Oh, se esci con noi dopo un mese tu rinasci, capito? Senti, vedi la luce è proprio aria pulita lì. Ehi, la luce al neon, vedo. Tu frequenta noi e poi adesso incominceremo. Che sta arrivando il bel tempo, incominceremo nuovamente le uscite, no? Dare. Marco. E io ho capito. Il discorso è questo, ti portiamo un po' a vivere, capito? A farti un po' la cosa. Tipo la punta, a me. Già. Beh, perché c'è questa portante? Io sto grattugiando. Ah, sì, si è allenato dai tempi di Falcone. Già, ma se lui frequenta noi tempo un mese, lui rinasce, vero già? Gappa, gappa. Hai sentito? Capulotto. di non portare appresso quel pupazzo, me. Oh, Condo, lo sai cosa gli fa a Giuseppe, mio figlio, quello che ha 12 anni? Sì. C'ha Streck. Praticamente è un bagnoschiuma con la cosa di Streck, e dice che assomiglia a Leoncino. Ogni volta che viene glielo porta e lo mette vicino. Ma Streck? Sì. Ruggia, ruggia. Dice che assomiglia a Leoncino. Allora, Leoncino, adesso ti chiamiamo Giuseppe Streck. Bene, non c'è problema. Io anche ti chiamo Marcolino Pipistrello. Lontano e da vicino. Puoi fare un'altra rima, però non te la voglio dire. Ci capiamo tutti i nomi allora. E Giuseppe Doppiru, ma Gianni Doppiru come lo chiamiamo? Avanti. Se la puoi ripetere perché c'è un macello e non si sente molto bene. Ma solitamente li usano radioamatori più che la 27, queste tipologie di, diciamo, di telefono. Sì, già conosco com'è la storia, già la conosco, però non mi piace perché se sono al baracchino, invece sono al baracchino, se sono al telefono, invece sono al telefono. Questo sistema Android che stanno usando non è che sia una cosa che a me entusiasmi molto. Avanti, Marco Condo. Ma sta parlando di Zello, per caso? Di quel sistema Android che parli con le baracchine. Eia, è carino, però non è baracchino, capito? È tutto via rete, via anche via telefonica, naturalmente. Però già se ne sente di gente, dai. Sentite la risposta che ho detto, se sono al baracchino sono al baracchino, se sono al telefono sono al telefono. Sono due cose diverse. Riprendete un attimo che lo prendo. Tu puoi stare... poi ognuno la vede a modo suo. Diciamo che la tecnologia sta facendo passare gigante, ma... A me piace rimanere, diciamo, sempre come i vecchi tempi, là. Mi piace avere il baracchino, parlare il baracchino, non al telefono, per parlare con quelli che hanno il baracchino. È un sistema particolare, ma non è che mi entusiasmi più di tanto. Avanti, Alghero. Giro i canali, faccio la spazzolata e vedo chi c'è. Non mi interessa che mi avvisino, che facciano. Non è una cosa che a me possa interessare. Avanti, come ti chiami? Giuseppe Leoncino. Ma non dobbiamo andare a questa gara ai cavalli? Dobbiamo andare, ma tu sei pronto? Sì, semi, semi pronto. Pronto. E io mi devo mettere i pantaloni e poi a che ora iniziamo questa cosa? Alle 4. Tutto finito. Cosa ha finito? La costa è qua, sì. Finita. Finita, stiamo andando i cavalli. A che ora ha finito? Ciao Gianni, buonasera. Saluto a Giuseppe e vari ascoltori. No, veramente no, è una battuta che ho lanciato così. Veramente non lo so se è ancora in corso, se deve cominciare o quant'altro. No, io voglio essere più che altro per farmi un giro, per portare sempre le lampade in casa. Che sono sempre chiuso in casa. Farmi un giretto, vedere un po' di roba. Poi dice, ci conosco un po' di gente, quindi non c'è problema. Scendiamo con Giuseppe e ci divertiamo. Ok. No, non lo so già, non lo so se a che ora iniziamo e quanto durava. Ma è una sorta di saltiglia, vero Alessio sa? Sì, a quanto ho capito dovrebbe essere una sorta di saltiglia. Per lui sono trascinato, ho messo la sabbia, insomma, o qualcosa del genere. Cava, cava. Allora, Giuseppe, decidi che io cosa avremo. Cambiando, poi dammi un quarto d'ora, massimo una mezz'oretta sono da te, là. Sì, a Marco, tu cosa fai? Io non sono stato convinto. Mamma mia, cazzo sei mandrone, a chi scelti? Aiù, così ti trovi la ragazza. E te vieni in asa. Giuse, ma... Oh, Marco, dimmi. Boh, non lo so. Sto decidendo. Risposta affermativa è sì, dai, io, preparati. Ma se dove abito io, ti fai trovare sotto casa, io. Ma perché andate a festa finita? Una mamma, come faccio? Perché stai dicendo che la festa è finita? Vedo, perché adesso siete andati prima, siete andati a festa finita? Perché adesso, come finisce la festa, tutte le ragazze vanno via e noi le incontriamo. No. Ho visto che si stavano già ritirando, hai capito? Erano già tutti in fila ritirandosi. Sono arrivato adesso a produttore. E vabbè, andiamo a farci un giretto. Se è finita, pazienza, va. Facciamo un giretto. Positivo. E vabbè, già fa bene fare due passi, dai, se non ci sono... Se è finita la sarpiglia, già ci sarà qualche puledra a giro. No, a parte quello, non vado per quello, ma... Cazzo Giuseppe, hai visto la munizione della legge a mia moglie, le ha detto che a Marco che ci divertivamo, e chi c'è, cioè, perché cosa ha fatto per divertirlo? Signora, se in ascolto, lui dice così, ma non è così, lui va per le puledre, perché io lo conosco bene, a Gianni, lui non va per vedere i cavalli, lui va per vedere le puledre, e io lo conosco bene, non si fidi signora, non lo faccia uscire. Beh, dice da me, perché c'ho le cuffie adesso, se Giuseppe stava sgarrando 3 ore. E le cuffie lasciano libero il baracchino. E la tua dice da Marco, vedi con noi che ti facciamo vivere qua, là, e chi ti ha pensato in sagosto? È positivo, positivo, tu togliti le cuffie e vedrai. Mamma, infatti io filato. Allora, Marco Condor, e te che ne fare? Io per sì, però... Io non ci sono sceso, ero pronto, però non ci sono passato lì dove, però ci sarà qualcosa, là. Credo di sì. Ci sarà qualche cosa in movimento, almeno vi permetto una birra, un gelato e fate due fatti a piedi. E mi sono dovuto prendere i lucchi, dici, perché non riuscivo manco a muovermi dai dolori che avevo, che nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, tutte le parti. Ho dovuto prendere i lucchi. Marco, non ho capito cosa ha detto. Che la macchina la devo lasciare a mamma, che deve uscire, credo. Quindi, se dovete andare, io verrei, però dovete venire qua. E qual è il problema? No, appunto, sono, no? No, esattamente no, Marco lì. La via la conosco qual è, ma non so, tu esattamente ti fai trovare dove c'è Scarpa lì e siamo a posto. Ok, già, dove c'è Scarpa? Ehi, aspetta però che te lo dico quando viene Leoncino, perché diciamo che da lì in poi ci mettiamo 5 minuti là, però bisogna che venga lui prima. Sì, d'accordo, d'accordo, dai, io già sono qua. Già sono qua. Ci pagava. Va bene, dai, riprendi, dici un caro, una buonasera. Dici, impegnato. Chi è rimasto? Non c'è nessuno. Già c'è la gente, a Bifede, sono tutti curati di buco. Andiamo a donne, andiamo. Portatevi molti soldi, eh. Carola, quello è il problema, è un problema grosso. Uia, uia. Comunque gente già ne conosco lì, non me pure. Oh, Gigi Luca. Palazzo. Dicevo, Berto, te che conosci gente là. Tu ci lavori, ma tu sei anche nato a Porotone, cioè sei in Sassari. Io nato, no, no, io sono sassarese, io sono di Sassari. A Porto Torres sono andato a lavorare quando avevo 19 anni circa. Ah, sei una vita, ce lo credo che conosci gente. Beh, io è come se fossi a Sassari. Come conosco la stessa se la costa proprio, ci sono chi via quella, via l'altra, via tutto quanto, oramai tanti anni. Gaba, gaba, gaba. Lo sai Marco lì che esce un bel bene dell'apparecchio, cazzo. È un peccato, non necessita di arrivare la vittoria. Sì, dai, adesso a metà settimana, oppure a fine settimana glielo do. Ora, 1, 2, 3. Sì, superstar, quelli con la scheda in PT 3006 escono bene, c'è poco da fare. No, quello non è il Connex. Sì, però è uguale al superstar. E hanno tutti la scheda EPT 3006. E praticamente è una scheda particolarmente riuscita, che è stata adottata da un festival di tornado, tipo Galaxy, Samurai, che diceva anche quello, Connex, quegli apparati. Ecco, c'era pure Gio Maria, mi pare a me. Ma stai uscendo? Io? No, Giuseppe non sta uscendo. Guarda a vedere Marco. Giuseppe, ma per parenti, se no non andremo giù. Sono già pronto qua. Mi devo lavare la faccia e sto arrivando, dai. Fatti anche il bidet. La matta te ne vai, eh. Io chiudo, dai, ci vediamo lì, dai. Se no. Ehi, a calcola Marco lì. Fai fra una ventina di minuti fatti trovare lì là. Che io adesso vado, vedo una sciacquata e mi sto preparando anch'io là. Ok.